Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Tutte le notti me la sogno. Chiudo gli occhi. Un film. Valle verde, meraviglioso. Campi da tennis, sole. Tof. Tof. Un film. Buñuel regista. Si alza in volo un branco di mucche. Lui può. E su quei bellissimi ragazzi abbronzati, dalle mandibole giuste, dai denti bianchi. Su quelle signore assolutamente belle, ma così assolutamente da non arrapare nessuno. Su quei signori eleganti e raffinati, su quelle signore da piccoli cagnolini. Sulle Adidas, sulle magliette con coccodrillino, sugli arbitri con la R francese. 40-30. Toff, toff, parità, toff, e le mucche, plà. Parità. Con questo travolgente monologo del 1976, tratto dallo spettacolo teatrale Libertà obbligatoria, Giorgio Gaber, il grande chansonnier milanese, sceglie di ironizzare sullo sport del tennis colpendone la sua simbologia più nota, quei gesti bianchi che da sempre caratterizzano, oltre che l'abbigliamento, anche il comportamento dei giocatori in campo, votato al massimo fair play e all'eleganza dei movimenti, alle buone maniere e alle fragole con panna servite a Wimbledon, nel reverente silenzio di pubblico e di giocatori. Ma non proprio di tutte le giocatrici. Il tennis di oggi, potente e colorato, forse ha perso qualcosa di tutto questo. E complici ne sono l'evoluzione tecnico-fisica degli atleti, le imperanti regole dello show business, e forse soltanto il torneo inglese di Wimbledon, il più antico e prestigioso evento nello sport del tennis, e ancora l'irriducibile baluardo di un tennis d'antan. A Destini Incrociati oggi parliamo di tennis femminile e di come alcune straordinarie atlete lo abbiano di forza trascinato nell'era moderna, liberandolo da troppi pizzi e merletti, velocizzandolo e potenziandolo, e facendone forse l'unico sport in grado di rivaleggiare per spettacolarità e interesse con la versione maschile. In particolare parleremo di due tenniste che nell'arco di 15 anni hanno dato vita a una delle più grandi rivalità dello sport, incontrandosi sui campi di tutto il mondo per 80 volte e stabilendo un record assoluto per lo sport individuale. Ma prima è giusto rendere omaggio a chi in passato ha lasciato nel tennis femminile un'impronta altrettanto importante, determinandone la storia fino al loro avvento, e in particolare da colei che ancora oggi è ricordata come la divina, la francese Suzanne Langlin, ovvero la nonna di tutte le tenniste moderne. A occuparmi di Suzanne Langlin io ho passato una vita. Prima ne ho scritto una biografia in francese, addirittura sollecitatami dai famosi suoi compagni, i quattro moschettieri. Poi ho cominciato a lavorarci, ho trovato addirittura una sua vecchia racchetta e un pettine che sono diventati dei setici nel mio studio. Ho scritto una nuova biografia in italiano, che è andata benissimo, uscita per Longanesi e poi riuscita di nuovo l'anno scorso per Fandango, quindi curiosamente questo è un personaggio che affascina. Ho scritto un monologo che è andato in scena alla Biennale di Venezia e poi ne ho scritto addirittura una commedia che è stata purtroppo solo letta al Teatro Belli di Roma, ma non ha trovato qualcuno che la ospitasse. La commedia della tennista faceva paura. E infine addirittura la cito nelle mie prossime poesie, un libro che uscirà tra 3-4 mesi da Fandango e che si chiamerà Il suono del colore, che dice: provo, mai più orma lieve di fantasima viva calpesterà il tappeto del Centre Court di Wimbledon, costruito per te la tua grazia infinita, il tuo talento alieno e una mano capace di traiettorie lucenti non inferiori a Mondrian. Suzanne Lenglen è stata la prima celebrità femminile del tennis e una delle prime stelle internazionali dello sport femminile. Umorale, estroversa, un gioco di gambe estremamente agile, una velocità e un tiro dall'accuratezza micidiale le permettono di dominare il tennis per 7 anni consecutivi, dal 1919 al 1927. Suzanne, fin dagli esordi, stupisce anche per l'innovazione nell'abbigliamento sportivo, scendendo in campo con eleganti creazioni del sarto patou e il capo avvolto con turbanti di seta. Il pubblico a Wimbledon è stupefatto quando nel 1920, alla sua prima partecipazione al torneo, si presenta con gli avambracci nudi e la gonna tagliata appena sopra il polpaccio, praticamente nuda per gli standard dell'epoca, e sorseggiando un bicchierino di brandy tra un set e l'altro. Classe, forza fisica, coraggio. Lenglen è portatrice di un tennis nuovo e moderno, anche se a soli 39 anni, sconfitta dalla leucemia, si congeda dalla sua vita e dal mondo del tennis dopo aver vinto 25 titoli di Slam e lascia in eredità una nuova concezione della donna nello sport. Dopo Suzanne, altre grandi atlete seguiranno i leggendari gesti bianchi della Divina. Negli anni 50, Althea Gibson, la prima tennista di colore di livello mondiale, e la brasiliana Maria Bueno. Nei 60, l'australiana Margaret Smith, un'atleta prestata al tennis, e soprattutto Billie Jean King, la californiana rivoluzionaria. Poi, all'inizio degli anni 70, un uragano biondo celato dalle sembianze di una dolce ragazzina si abbatte sui circuiti del tennis professionistico. Non ha ancora compiuto 18 anni, ma gioca con la freddezza di una veterana e sfodera un'arma segreta. Il suo rovescio è infatti impugnato a 2 mani e riesce a imprimere alla pallina una potenza mai vista fino a quel momento. È la nostra prima protagonista e il suo nome è Chris Evert. Chris Evert. Vederla apparire sui prati di Forest Hills per me fu un'esperienza indimenticabile. Aveva un'eleganza nativa insieme curiosamente scolastica. Pareva uscito da un grande istituto per giovinette chic, una specie di poggio imperiale Yankee. Veniva più semplicemente da una famiglia educatissima e piccolo borghese, però il papà, esemplare, Jim Evert, una buonissima mamma, 2 fratelli e 2 sorelle. Crescendo poi quel suo piglio non venne mai meno, anche nei momenti in cui la fatica, l'irritazione, addirittura la frustrazione rendono difficile mantenersi distaccati. Gianni Clerici, ex tennista professionista e soprattutto grande maestro del giornalismo italiano, ha descritto nel modo che abbiamo ascoltato nel suo libro 500 anni di tennis l'avvento della giovane americana nel mondo del tennis internazionale. Ma andiamo a conoscerla meglio. È sotto l'intramontabile sole della Florida che Christine Evert nasce il 21 dicembre 1954 a Fort Lauderdale. Il papà Jim è un maestro di tennis che fin dai primi passi della figlia l'allena sul campo vicino casa insieme alla sorellina Jeanne e al fratello John. Chrissy, come viene chiamata in famiglia, mostra subito buone qualità. Colpisce bene di dritto, si muove leggera e ha grinta da vendere. Ma Jim capisce subito che la ragazza è troppo piccola e debole per giocare un rovescio all'altezza degli altri colpi. Decide così di farle unire la destra e la sinistra in un'impugnatura a 2 mani, allora poco ortodossa, ma efficace per dare potenza al colpo. Dopo qualche giorno di esercizio, Evert resta stupito. Chiama la moglie al campo, alcuni amici tennisti. Vuole capire se sta solo sognando o se di fronte a lui c'è davvero una futura campionessa. I colpi che partono dalla pesante racchetta in legno della figlia hanno la potenza di una mazza da baseball e soprattutto Chris non li sbaglia mai. Come sua figlia ebbe la forza di reggere la racchetta con la sola destra, papà Jim provò a modificare quel gesto. Tentò e ritentò per una settimana, ma dovette piegarsi dalla riluttanza di Chris. Quel rovescio rimase dunque connaturato alla Evert e divenne anzi un modello per la maggioranza delle professioniste e anche di un bel numero di colleghi maschi. Sembra il caso di ricordare che quasi contemporaneamente anche 2 fenomeni quali Connors e Borg adottarono la doppia presa. Siamo nei primi anni 60, in Florida, dove un'esile ragazzina americana di nome Chris ha imparato a colpire una palla da tennis con un rovescio a due mani e la cosa le riesce molto bene. Jimmy, il padre, un maestro di tennis, la iscrive ai primi tornei e lei li vince tutti. Carina, educata, i nastri colorati nei capelli e la tenuta sempre impeccabile, Chrissy, come la chiamano tutti a casa, sembra una principessina. Ma nel suo animo alberga uno spirito guerriero. Le qualità che fanno un campione sono tutte cattive, perché nascono dall'insicurezza, dal bisogno di provare sempre qualcosa, dalla rabbia del non voler perdere. Devi odiare la sconfitta, sapere che se stai sotto in difficoltà, non fa niente perché vincerai lo stesso. Solo una cosa ti salverà, la purezza della tua arroganza. La purezza dell'arroganza, dice Chris Everton nell'intervista che abbiamo ascoltato. E forse l'immagine che queste parole restituiscono è forte. Ma la Evert appartiene a quella categoria di campioni che non sanno perdere, che non contemplano la sconfitta e che nella fase più alta della loro carriera si possono definire imbattibili. Non volevo perdere, odiavo la sconfitta, ero arrogante, intrattabile, impaziente. Ma sapevo che se stavo sotto 3-5 non era niente, perché avrei vinto lo stesso. Era qualcosa che mi scorreva dentro e mi infondeva una fiducia incrollabile. E a vincere Chris inizia davvero presto. Ha solo 15 anni, quando nel 1970 al torneo di Charlotte, poche miglia lontano da casa, batte tra lo stupore generale Margaret Court Smith, plurititolata campionessa australiana e allora indiscussa numero uno del mondo. Chris si presenta in campo con una lunga coda di cavallo legata da un nastro colorato, il trucco leggerissimo e una tenuta da gioco strizzata che la fa sembrare ancora più piccola. Il suo dritto è spesso imprendibile e il suo rovescio millimetrico è a due mani, gesto fino ad allora mai visto nei circuiti pro e che lei non fallisce quasi mai. Maggie Smith quel giorno lascia il torneo a testa bassa. Da donna e tennista intelligente qual è, ha capito che il tennis ormai appartiene a una nuova razza. Quello delle ragazzine terribili, aggressive, senza paura. L'anno successivo Chris gioca il suo primo slam, gli US Open, andando molto vicino al trionfo. Per tutti è ormai già diventata la fidanzatina d'America, come ci ricorda ancora Gianni Clerici in 500 anni di tennis. Chris passava per la fidanzata d'America e la chiamavano anche addirittura la principessa di ghiaccio. Quelli erano i suoi personaggi ufficiali. In privato però era un'altra, era addirittura birichina, capace di comicità, capace di divertirsi. Ma le sue qualità più vere sono sempre state la competitività e la sportività. Ha avuto anche la fortuna di uscire da una famiglia in cui il papà era un buonissimo coach e la mamma una gran signora. Mentre Chris Evert si gode il sole della Florida, i primi tornei vinti e i primi guadagni con una famiglia perfetta al fianco, dall'altra parte dell'oceano Martina Subertova, una ragazzina cecoslovacca innamorata del tennis, vive una situazione completamente diversa. Praga, la città in cui è nata, per quanto romantica e affascinante, non è assolata come la Florida e al posto di palme e sabbia dorata fuori dalla finestra della sua cameretta, ciò che vede sono soltanto i carri armati sovietici. Solo i sogni sono gli stessi. Giocare a tennis e, se possibile, diventare la più brava di tutte. La madre, Jana, da qualche anno ha divorziato dal padre di Martina e ora vive con un nuovo compagno, dal quale la ragazzina ha preso il cognome, Navratil, aggiungendo come d'uso nei paesi dell'est europeo il suffisso femminile Ova. Diviene così il nome con cui presto sarà conosciuta sui campi di tutto il mondo. Martina Navratilova. Martina Navratilova. La mia prima racchetta è stata quella della mia nonna materna, Agnes Semanska, alla quale il regime comunista aveva tolto praticamente tutto, fuorché un campetto privato in terra rossa, dove si allenava ai tempi in cui faceva parte della nazionale cecoslovacca di tennis. Era di legno, l'ovale schiacciato nella parte alta come avesse preso una gran botta. L'avevano accordata un'infinità di volte quella racchetta, ma io cominciai a giocare contro il muro a 4 anni e mezzo e sviluppai una relazione di odio-amore. Mi rendeva furibonda quella sua impassibilità. Non riuscivo a batterlo. Un altro bel caratterino, quello di Martina, che di avversarie nella vita ne batterà davvero moltissime, fino al giorno dell'incontro con la tenacia della fidanzatina d'America. Il luogo dove tutto ha inizio è a Akron, negli Stati Uniti, nel 1973. La Evert, 18 anni o poco più, e la Navratilova, 2 di meno, per la prima volta una di fronte all'altra. Nessuno, tra lo scarso pubblico vagamente annoiato di un anonimo torneo, si rende conto a cosa sta per assistere. L'inizio di una saga sportiva senza precedenti. Ever to serve? Be quiet, please. Per adesso, torniamo nella Cecoslovacchia della primavera di Praga per capire come una ragazzina magra e dai capelli corti, sempre in calzoncini al punto da essere spesso scambiata per un maschietto, possa a soli 16 anni avere già iniziato una carriera che la porterà molto lontano. Lontano soprattutto dalla tristezza e dalle mille difficoltà di un paese occupato dai carri armati e da 50.000 soldati stranieri. A Praga, il 16 gennaio 1969, uno studente di solo pochi anni più vecchio di Martina, di nome Jan Palak, è arrivato in piazza San Venceslao con una tanica di benzina, senza dare troppo nell'occhio. I soldati sovietici, insospettiti, gli si avvicinano, ma non riescono a fermarlo. Jan si è già dato fuoco, senza un lamento, se non quello della sua protesta estrema. Le parole che gli sentiamo faticosamente pronunciare nel letto di agonia, poche ore prima della sua morte, restano impresse nella memoria collettiva di un intero popolo che da allora lo celebra come il suo eroe più grande. Volevo esprimere il mio dissenso per quello che sta accadendo, ridestare la gente. Volevi scuotere l'opinione pubblica e esprimere la tua protesta per quanto sta accadendo? Sì. E in che modo concretamente? Dandomi fuoco. E a quali condizioni cesserete questi gesti? Quando sarà abolita la censura. Tutti si chiedono se non basta quello che hai fatto, tutto il mondo l'ha visto. Non vogliamo essere presuntuosi, semplicemente non vogliamo pensare troppo a noi stessi. L'uomo deve lottare contro il male che riesce ad affrontare. Siamo nei primi anni 70. Una giovane tennista americana, Chris Evert, a soli 18 anni, è già una presenza fissa nel circuito professionistico femminile. Riesce a battere quasi tutte le colleghe più esperte e blasonate, andando vicinissima a vittorie importanti nei tornei di Francia, Inghilterra e Australia. Per tutti, e soprattutto la stampa americana, che la coccola e la soprannomina fidanzata d'America, sarà presto la nuova e incontrastata regina del tennis femminile, finché non si scontrerà duramente con un tenace vento dell'est, dal nome Martina Navratilova. Martina nasce Subertova a Praga, il 18 ottobre 1956. Ma a soli 3 anni assume il cognome definitivo dal patrigno Navratilov, che la madre Jana sposa in seconde nozze. I tre vivono a Revnice, in casa della nonna Agnes Semanska, un ex tennista di buon livello. Il talento di Martina si rivela subito straordinario. A 8 anni, al suo primo torneo Under 12, arriva in semifinale e da quel momento è affidata alle cure dell'ex campione ceco George Parma. Sotto la sua guida, la sua forza fisica diviene uno strumento di creatività. Martina sente di avere trovato la sua strada, ma nell'estate del 1968 i carri armati sovietici minacciano di interrompergliela. In quel fatidico agosto la futura campionessa è a Pilsen per un torneo juniores. Al rientro la città appare un'altra, spenta, senza anima. È in quei giorni che in lei matura la sua determinazione feroce. Non più solo semplice voglia di vincere, ma anche consapevolezza del prezzo della sconfitta. Poco prima di un incontro, Martina replica a denti stretti a un'avversaria russa che si rifiuta polemicamente di stringerle la mano. Per battermi avrai bisogno di un carro armato. Vince i campionati nazionali cecoslovacchi e a 16 anni passa al professionismo. Inizia a girare il mondo, sempre scortata da funzionari della federazione, ma inizia a farsi un'idea di come potrebbe essere la sua vita lontano da casa. Quando nel 1973 si iscrive al torneo di Akron, negli Stati Uniti, è ancora solo una ragazza dell'est europeo di grandi speranze e del tutto sconosciuta. Ma lei avanza senza troppa fatica fino agli ottavi di finale e poi finalmente la sua strada incrocia quella di Chris Evert. Il loro destino sta per cambiare direzione definitivamente. La prima di quelle che saranno 80 memorabili sfide effettuate nell'arco di 15 anni sui campi da tennis di tutto il pianeta è appena iniziata con la Evert al servizio e tutto scorre in perfetto equilibrio fino al tie break del primo set. Martina ricorda così il loro primo incontro. La prima volta che ho visto la Evert le ho sorriso, ma non mi sono uscite le parole per salutarla, tanto ero intimidita. La seconda volta mi ha sorriso anche lei. E la terza, finalmente, sono riuscita a dirle hello. Lei rappresentava molte cose che ammiravo. Eleganza, indipendenza, correttezza in campo e infine soldi, che non avevo avuto mai. Quando mi ha battuto la prima volta ad Akron, non dimenticherò mai il risultato. 7-6, 6-3. Quando smisi di essere felice per quello che ritenevo un buon risultato, infatti oltre ad avere 2 anni meno di lei, avevo molta meno esperienza, capì che dovevo migliorare i miei schemi d'attacco se non volevo essere costantemente battuta dal suo rovescio bimane e rimanere vuota di energie dopo il primo set. Il desiderio di migliorarsi di Martina, però, all'inizio non basta. Chris, dopo quel primo storico incontro, vince anche i successivi 4 confronti con Martina, compresa la finale degli internazionali di Roma del 1974. In quello stesso anno stabilisce il nuovo record assoluto di 56 vittorie consecutive, compresi Wimbledon e Roland Garros. A soli 20 anni, la guerriera, con le sembianze di un cerbiatto, è la giocatrice più forte del mondo. Chris Evert negli anni 70 si avvia a diventare la più forte giocatrice di sempre. Si allena duramente, gioca un torneo dopo l'altro, ma è anche molto giovane e molto carina. Nella sua vita trova spazio quasi subito l'amore. E come spesso accade agli sportivi di alto livello, Chris si innamora di un collega e ne è ricambiata. Anche lui è un numero uno, gioca il rovescio a 2 mani e ha l'istinto vincente del killer. Il pubblico lo adora, la stampa lo ribattezza affettuosamente Jimbo, ma il suo nome è Jimmy Connors. E anche il grande mancino dell'Illinois non è certo passato alla storia come uno che amava perdere nemmeno un punto. Mentre la carriera e la relazione tra Chris e Jimmy, amati e invidiati fidanzati d'America, proseguono senza apparenti ostacoli, a Praga Martina Navratilova vive una situazione completamente opposta. La vita d'atleta in patria inizia a essere soffocante, controllata da una federazione, a sua volta condizionata dalle scelte del rigido regime comunista. Martina anela alla libertà, che significherebbe anche un considerevole salto economico. Ne parla in famiglia, prova a convincere tutti, ma di fronte a lei trova il muro di Mirek Navratilov, che le fa chiaramente capire che la famiglia non l'avrebbe seguita nella fuga in Occidente. Ma forse nella decisione del padrino cova un altro tipo di rabbia. Si è infatti accorto di alcuni comportamenti della figliastra fuori dai campi da tennis che non si conciliano con la sua personale visione della vita e soprattutto delle relazioni sentimentali. Ma Martina ormai ha deciso. Il desiderio di andarsene è troppo forte. A soli 18 anni, nel settembre del 1975, mentre sta giocando gli US Open, d'improvviso chiede asilo politico agli Stati Uniti d'America. In una commovente conferenza stampa, con la voce strozzata e le lacrime che le rigano il volto, dichiara: «Per favore fate capire alla gente perché l'ho fatto. Non è per poter mangiare hamburger». Fanno tenerezza le parole di una ragazzina che, seppur già fortissima, si esprime con tale accorata ingenuità. Anni dopo, in un'intervista, ricorderà con più freddezza quei drammatici momenti. «Volevo essere libera di fare la mia carriera, di giocare il mio tennis. Ogni volta che volevo partire erano discussioni interminabili e il governo non mi dava mai un visto per più di 3 mesi. Decisi di non tornare più. Essere la terza tennista del mondo a 18 anni non mi bastava. Volevo diventare la numero uno. In Cecoslovacchia mi dissero: meglio decima al mondo che prima, purché tu rappresenti un buon esempio di un atleta dell'est. Insomma, so che là non sarei mai diventata quel che sono stata. Anche se non potevo sapere quanto sarei migliorata». Nessuno a quei tempi pare capire molto della personalità e della grande ambizione di Martina. Il primo impatto con la libertà, tuttavia, si traduce per lei anche nella libertà di lasciarsi andare. Compra tutto quello che può: gioielli, vestiti, macchine sportive, case e stravaganze di ogni genere. In pochi mesi ingrassa 10 kg, colleziona sconfitte su sconfitte. Bud Collins, telecronista tra i più famosi negli Stati Uniti, la ribattezza The Great Wide Hope, la grande, grossa speranza. Ma non è l'unico pettegolezzo. Si inizia infatti anche a ironizzare sull'ambiguità delle sue amicizie americane. Billie Jean King, la golfista Sandra Haynes e la scrittrice Rita Mae Brown, tutte esponenti del movimento omosessuale femminile negli Stati Uniti, sono sue assidue frequentazioni. «Quando alla fine hanno concesso il visto alla mia famiglia, sono venuti tutti a Dallas, dove vivevo. Li ho condotti con la più grossa delle mie automobili in una casa comprata apposta per loro, a 200 metri dalla mia. Una bella villa col giardino, 3 bagni e 2 auto nel garage. Più di quanto avessero mai osato desiderare. Per un po' tutto è stato perfetto, ma mio padre non sapeva che fare e si propose come allenatore consulente della sua piccola. Ma io non ero più la sua piccola. Ormai avevo 23 anni. Avevo un'altra casa e la dividevo con Rita Mae Brown. E finalmente si venne al dunque. Mio padre si decise a dirmi: penso che tu e quella donna viviate come marito e moglie. Gli risposi che era così. E lui mi disse che avrebbe preferito che mi prendessi un uomo diverso ogni notte. Nel bel mezzo di queste discussioni mi dissero anche che il mio padre naturale non era morto in ospedale, come avevo sempre saputo, ma che si era invece suicidato. Rimasero ancora qualche tempo, poi ritornarono tutti in Cecoslovacchia. Contrapposta a quella dorata di Chris Evert, quella di Martina è certamente una vita più complicata. Ma il suo carattere d'acciaio le permette ad ogni caduta di ricominciare da capo. Crea uno staff di cui fanno parte un preparatore, un nutrizionista e prima fra le professioniste uno psicologo. Dimagrisce e si potenzia ancora di più a livello muscolare. E alla fine, nel 1975, nei quarti di finale del torneo di Washington, in un tiratissimo incontro vinto al tie break del terzo set, Martina vince il suo primo match contro Chris Evert. Ma la storia della loro interminabile sfida è ancora ben lontana dall'essere terminata. Chris Evert e Martina Navratilova, le due più grandi tenniste dell'era Open tra gli anni 70 e 80, hanno iniziato a sfidarsi al torneo di Akron nel 1973. Vince Chris e il successo si ripeterà 20 volte in 24 incontri fino a tutto il 1977, quando Martina riesce lentamente a invertire la rotta vincendo il suo primo Wimbledon nel 1978, battendo l'americana in un tiratissimo incontro vinto al terzo set e ripetendosi l'anno successivo, naturalmente sempre contro Chris. Nonostante abbiano iniziato già a fare la storia del tennis, non sono nemmeno a metà della serie leggendaria che le vedrà protagoniste. Mary Carillo, ex professionista e ora nota giornalista sportiva americana, descrive con queste parole la vincente sfida. Non sono mai esistiti due rivali che si sono scontrati tante volte quanto Chris e Martina. Non accadrà di nuovo, 80 volte. Quali due pugili, quali due squadre di baseball, quali due rivali in qualsiasi sport potranno incontrarsi 80 volte in un periodo lungo più di 18 anni e ad un livello qualitativo così alto? La rivalità tra Chris e Martina si è arricchita del contrasto tra le loro personalità, contrasto che si è manifestato anche nei loro differenti stili di gioco. La Evert era l'immagine della consistenza, della pazienza, colpi base implacabilmente piazzati e una volontà d'acciaio che si rafforzava con l'aumentare della pressione. La Navratilova, invece, emotiva, implacabilmente aggressiva, donna guerriera, attaccava ad ogni opportunità e discuteva le chiamate del giudice di linea mentre scherzava coi fan. Come innalzarono il livello del gioco, così innalzarono il livello di tutto lo sport. Eppure Chris e Martina non sono solamente due rivali. La condivisione degli spogliatoi, le partite, le premiazioni e i ricevimenti alla fine dei tornei cementano un'amicizia sincera che le porta a decidere di giocare insieme alcuni match di doppio vincendo, come fosse la cosa più scontata al mondo, il Roland Garros e Wimbledon nel 1975 e nel 1976. Ma le cose sono destinate a cambiare rapidamente. Martina è nelle prime cinque del mondo stabilmente, ha già vinto degli slam e sta guadagnando moltissimo e, come voleva, è diventata cittadina americana. Eppure il suo smisurato ego non è appagato. Lassù, al primo posto delle classifiche mondiali, c'è sempre Chris, l'amica rivale che ha vinto più di lei, che l'ha battuta più volte di chiunque altro e che è l'unico vero ostacolo al suo desiderio più grande, essere la numero uno al mondo. Agli inizi degli anni Ottanta, entrata in crisi di risultati, Martina si affida alle cure e al cuore di Nancy Lieberman, la più forte giocatrice di basket americana di sempre. Nancy diventa la sua allenatrice, la sua amante, ma soprattutto per Martina una guru. La Lieberman, un'implacabile perfezionista, insegna a Martina a sviluppare il killer instinct e soprattutto a odiare la Evert. Le spiega che per batterla dovrà visualizzarla come la nemica da abbattere a ogni costo. Ma non basta. Intorno alla boema crea un vero staff di esperti e la costringe a diventare vegetariana. Ecco come ne parla il sergente Nancy in un'intervista dei tempi. La sola carne rossa che mangia Martina è quella delle sue avversarie. Martina diviene una sua creatura e una macchina da guerra. Ma niente è più lontano dalla mentalità di Chris Evert, che resta stupita dai cambiamenti dell'amica rivale. Per almeno due anni, agli inizi degli anni Ottanta, Chris e Martina si parlano raramente. E quando lo fanno, non è certo in maniera lusinghiera. Rimasi ferita dal fatto che la nostra amicizia fosse stata così completamente distrutta da Martina per il suo desiderio di diventare la numero uno del mondo. Ha trasformato le nostre sfide di uno sport competitivo in una vendetta personale, basata semplicemente sul fatto che io avevo dominato i nostri primi incontri e tutto il tennis femminile. Tuttavia so che è davvero difficile quando si vuole entrambe essere numero uno. Non vuoi essere emotivamente nella testa di qualcun altro quando sei in competizione con lui, e viceversa, non vuoi che nessuno entri nella tua di testa. Penso che alla fine abbiamo entrambe capito che ci siamo spinte a vicenda rendendoci null'altra giocatrici migliori. Chris Evert, mentre Martina Navratilova impegna tutta se stessa nel tentativo di scalzarla dalla vetta mondiale, macina vittorie e infrange cuori. Dopo la fine del movimentato rapporto con Jimmy Connors, Chris si innamora di un altro collega, forse molto meno forte di Jimbo, ma nell'opinione di tutte le fans sicuramente molto più bello. Si tratta di John Lloyd, un coetaneo di origini inglesi, ma con il viso da attore hollywoodiano. I due si sposano nel 1979 e John diventa una presenza fissa nei tornei e sulle riviste di gossip di tutto il mondo a fianco della moglie, che è innamorata e felice. Continua a vincere, cambiando il suo nome ufficiale nei tabelloni dei tornei in Chris Evert Lloyd. Beh, per colpa dell'amore ho anche buttato via vittorie importanti. Nel 75 a Londra, in semifinale, sono avanti 3-0 contro Billie Jean King. Ma le cose tra me e Jimmy Connors non andavano bene. Alzo gli occhi, lo vedo in tribuna con l'attrice Susan George e mi sento morire e non becco più una palla. Nel 78, sempre a Wimbledon, al terzo set sto battendo Martina Navratilova 4-2, 40-15. Ma mi ero innamorata del tennista John Lloyd, pensavo a lui ad ogni punto e addio concentrazione. Mentre la signora Evert Lloyd consuma la sua dorata luna di miele con il bel marito John, Martina ha definitivamente affilato le armi. Sempre più asciutta, muscolata, veloce e aggressiva nel gioco a rete, infila una vittoria dopo l'altra. E soprattutto tra il 1982 e il 1984 riesce a battere la Evert per 13 volte consecutive. Tutte finali, tutte vinte da Martina, compresi due volte gli US Open e una volta Roland Garros e Wimbledon. La storia dei loro incontri è ora pressoché in parità, 31-30 per Chris, e il sogno di Martina di diventare la numero uno è sempre più vicino. Ma non tutti ne sono contenti. La boema ricorda così quel periodo. Non ero troppo amata negli Stati Uniti perché venivo pur sempre considerata una straniera, una rivale di una ragazza carina e amata da tutti, anche da me, e dal nome facile a pronunciarsi, come Chris Evert. Per me non è mai stato facile essere accettata. Anche oggi so che qualche mia collega si lascia andare a commenti ironici e talvolta cattivi sul mio gioco, sulla mia forza fisica, e perché sono sempre io quella che vince. Ma nel mondo dello sport professionistico non c'è mai tempo per guardarsi indietro e soprattutto per sedersi sugli allori. Mentre Chris e Martina proseguono il loro infinito match, alternandosi nel dominio della classifica mondiale, una ragazzina di Germania dallo sguardo timido ma dal fisico d'acciaio e dal dritto fulminante sta velocemente mettendosi in luce. Si chiama Stephanie Marie Graf, detta Steffi, e dai giornali tedeschi ribattezzata Fräulein Forehand, Miss Dritto. Mary Carillo ricorda l'avvento dell'Amazzone teutonica con queste parole. L'arrivo della Graf nel circuito femminile fu destabilizzante per Chris e Martina. Capivano che un nuovo tipo di tennista era nata, un'atleta completa, rapida, potente, veloce e con la mentalità disciplinata e vincente dei tedeschi. Ma paradossalmente questo finì per riavvicinarle. Martina capì che il suo nemico ora non era più l'americana. E anche se la loro sfida continuava, ora doveva guardarsi le spalle dalla Graf. Così, una volta che Martina fu sicura del suo posto nella storia del tennis e che con Chris doveva affrontare il cambio della guardia per mano di Steffi Graf, le due campionesse tornarono ad essere amiche. All'inizio riuscirono a tamponare vincendo i primi match, ma poi divenne tutto più difficile. Steffi Graf, pur giovanissima, non ha infatti nessuna intenzione di fare sconti a questa alleanza e nessun timore reverenziale. Nel 1987, a soli 18 anni, strappa alla Navratilova, in quel momento numero uno al mondo, il titolo del Roland Garros, dopo una drammatica finale finita 8-6 per la tedesca al terzo set. E l'anno seguente si ripete agli Australian Open, battendo la Evert dopo un altro match molto combattuto. Chris Evert, ormai 34enne, capisce che è giunto il momento di dire basta. Già a 25 anni avevo iniziato a chiedermi quale sarebbe stato il momento giusto per ritirarmi e come avrei fatto a capirlo. Sapevo che nessuno avrebbe potuto dirmelo, che questa decisione l'avrei potuta prendere soltanto io. Ora per me è sempre più difficile perché sento che a 34 anni il meglio del mio tennis è passato. Sempre più spesso mi trovo a giocare con ragazze che hanno 15, a volte anche 20 anni meno di me, e che non sembrano affatto intimidite nell'affrontarmi. Hanno quella fame di vincere e lottare su ogni punto, che io invece non ho più. Beh, quest'anno ho raggiunto soltanto una finale del Grand Slam, e per l'anno prossimo non ho la convinzione di poter far meglio, anche se mi piacerebbe finire con una grande vittoria. Grandi vittorie non ne arriveranno più, E Chris, dopo la sconfitta in finale a Chicago contro Martina, passa definitivamente in svantaggio anche nel computo della loro sfida personale, che si conclude 43-37 a vantaggio della Boema. Il conteggio finale di vittorie nel Grande Slam è invece curiosamente in pareggio, 18 per entrambe, con 14 finali giocate una contro l'altra. Qualcosa che ha forti probabilità di essere irripetibile. Ma è una rivalità epocale, anche perché c'è di mezzo l'una europea e l'altra americana, una molto femminile e l'altra apparentemente meno femminile, anche perché poi era omosessuale e è stata l'omosessualità che ha dato una svolta forse decisiva alla sua vita e alla sua indipendenza. Insomma, quindi è difficile riproporre qualcosa di simile se non inventandola, reinventandola e facendola diventare letteratura ancora prima che vita vera. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.